minuti su Rigonia. Take the time to make some sense of what you wanna say, and cast your words away upon the waves, and sail them home with acquiesce on a ship of hope today. And as they land upon the shore, tell them not to fear no more. Sing it loud and sing it proud today. And then dance if you wanna dance. Please, brother, take a chance. You know they're gonna go which way they wanna go. All we know is that we don't know how it's gonna be. Please, brother, let it be. Life on the other hand won't make us understand. We're all part of a master plan. Take a chance, you know they're gonna go which way they wanna go. sacred spaces are beauty, tending to it regularly, and also just like using what you've got around you. I see sacred spaces as really places where we can embody the sacred. So we're bringing the sacred into the physical. Beauty, I believe, is a gateway to the soul. And so anything that makes your heart open or puts you into a state of awe, and beauty often does this, whether it's a beautiful rose or something else that lights you up in that beauty way, that's always going to be a gateway to the soul. The second one is tending to it. So if you imagine like an altar or another sacred space that you've got, what you're really doing is you're using this physical space to direct your sacred energy, to direct your connection with your soul or the sacred. So the more energy and time you spend with it, the more fueled of the sacred energy it will become. And then finally, you know, don't overthink it with like it has to be like certain statues or you have to go out and buy something. You can create beautiful sacred spaces with what you've got around you. It could be fallen leaves or petals from your garden. It could even be herbs that maybe have gone out of date, and you create a beautiful circle with the herbs with a little candle in the middle. So it doesn't have to be overcomplicated. And you know, working with the elements is also another great one that you can do with objects that you've already got around you. Rigonia. Ciao Radio Antidoto, come stai? È il 22 maggio 2024, sono le 17:07 e questa è Rigonia, stagione 2, episodio 25. È una puntata che io ho immaginato ieri sera. È una puntata che sostituisce un'altra puntata, o meglio, che si mette davanti a un'altra puntata. Ed è una cosa che, devo dire, mi dà delle straordinarie sensazioni. Cioè, in qualche modo, adesso, un certo atteggiamento creativo si è rimesso in moto. E fortunatamente ho degli argomenti che in qualche maniera si inseriscono prima di altri argomenti, e quindi comincio a vedere una piccola striscia, un piccolo cordone. Non è molto lungo per adesso, però è molto rassicurante, e anzi smanio. Fosse stato per me, sarei stato in onda a quest'ora ieri pomeriggio, più o meno, o forse un po' più tardi la sera, ma c'è stato un evento. Intanto saluto Cristina, che so essere in ascolto, dalla nostra chat di Telegram. E questo evento, come dire, è anche ciò che ha ispirato questo episodio. Da qualche giorno a Torino c'è un clima particolare, clima inteso come tempo atmosferico. Al mattino c'è il sole e al pomeriggio c'è la pioggia. Non è una pioggia che mi abbia particolarmente impressionato. Sono dei temporali, nemmeno particolarmente lunghi, tant'è che credo che quello che si sia scatenato poco tempo fa, no, sta ancora piovendo, però è una pioggia così a occhio leggera, molto costante ma leggera. Fatto sta che non mi induceva a pensare che sarebbe stata una pioggia in grado di produrre e procurare danni. E invece è stato così. Ieri pomeriggio mia moglie, scendendo giù dalla strada che conduce al garage, appunto, si è accorta che sotto tutti i garage c'era un po' di acqua e una striscia d'acqua. E così si è fatta venire la curiosità di aprire la porta del nostro. Ebbene, ciò che abbiamo trovato sarà l'immagine di copertina dell'episodio di oggi. È la foto che ho scattato io, così alla buona, per farla girare tra gli amici, per raccontare loro un po' che cosa stavo vivendo in quel momento. Ebbene, il garage di casa mia si è allagato. E all'interno del garage di casa mia c'erano gran parte degli scatoloni del nostro trasloco. Quindi ieri sera, più o meno a partire dalle 6:30-7 fino alle 10 di sera, ci siamo occupati di salvare ciò che era asciutto, spostarlo in altri posti, vagliare quello che era bagnato e recuperabile da quello che era bagnato e irrimediabilmente irrecuperabile, e portarlo su, stendere dei teli di plastica sul salotto in modo tale da non bagnare il pavimento e arrivare alla fine di questo lavoro, guardare le stanze e capire che cosa c'era da fare. Tra le vittime principali di questo evento, oltre a delle borse, delle scarpe, delle lenzuola, insomma oggetti che magari tutto sommato ci è dispiaciuto ma non ci hanno particolarmente colpito, ci sono stati i libri, perché i libri, ho scoperto, riescono ad assorbire l'acqua da qualsiasi posizione si trovano, quindi non importa se siano in cima o in fondo alla scatola. Certo, quelli in fondo alla scatola, come dire, a quelli in fondo alla scatola gli è andata peggio. E una scatola di ricordi, cartoline, disegni. Oddio, non ho visto le fotografie in che stato siano. E è tutto lì che aspettiamo che si asciughi per capire se riusciamo a recuperare qualcosa, a parte le calamite, che naturalmente stanno benone, se ne fregano le calamite dell'acqua. Ebbene, questo è il racconto degli eventi che mi hanno ispirato questa puntata. Io ho lavorato tutto il tempo col sorriso, con una gioia quasi infantile, e anche per tenere su l'umore di Lucia. E per questa ragione io avrei scelto i Beastie Boys come colonna sonora di questo episodio, però non so come mai mi sono rimasti incastrati gli Oasis, che avevo immaginato per un'altra puntata. Allora, siccome questa cosa di abbinare questi concetti a una band della mia cultura musicale, ma in realtà della mia esistenza, cioè band che hanno accompagnato veramente la mia vita sostanzialmente, cioè in maniera robusta, ho deciso che restavo sugli Oasis, che questo non era un caso, e il tema, grazie Cristina che mi dice che sono splendida con il mio sorriso, mamma mia, e io mi squaglio come un budino al sole. Comunque, il tema della puntata è la libertà. Il brano che voglio farvi ascoltare adesso si intitola Roll With It. Take. We all are familiar with physical nourishment. In order to run properly, to maintain physical health, we look after this body as best as we can. We educate ourselves, we contemplate, we meditate, we discuss to enrich our mind. What about the soul? How can we nourish our soul, our spirit? It is only through dhyana aided with pranahuti. Pranahuti means pranasya pranaha, the life of life. When it is transmitted, we feel it in our heart, and day after day as we continue practicing this meditation, it changes our life from inside out. Generally what happens in religious places, there is external change but hardly any inner change. Externally you may put tikka on your head, some red bands on your hands, some angavastram, incense sticks, some lighting lamps. But these are symbols to tell us, light a lamp within, the lamp of wisdom. But unfortunately, we stick to the skeleton, the external, and don't see the inner significance. I request you to ponder over this. How will you nourish your soul? You've been nourishing your physical body very well, your mind very well. Think of how to nourish our soul. Torniamo in onda 17, 18, 22 marzo 2024, Rigonia. Associo, allora, innanzitutto voglio chiarire una cosa subito, non farò la cafonata, scherzo, però naturalmente si parla di libertà, arriva un momento in cui pensi, vabbè, metterò Giorgio Gaber, no, non metterò Giorgio Gaber, non metterò la libertà di Giorgio Gaber, anche perché secondo me la libertà di Giorgio Gaber non ha a che fare con la libertà di cui voglio parlare io. La libertà di cui voglio parlare io è spazio. Difatti uno dei titoli, come dire, candidati a questo episodio era libertà e spazio, perché quello di cui sto facendo esperienza in questo, in quest'ultimo mese, se devo dire la verità, ormai i giorni stanno volando, è questa sensazione di grande apertura. E anzi, andrò a cercare un audio, vorrei proporvi un audio. C'è un concetto di cui parla il professor Morelli, lo psicologo, psicanalista, mi sa, vabbè, insomma, quella roba lì, io ho paura di beccarmi una denuncia a casa, no? Non credo che mi ascolterà mai, però diciamo che lui identifica questo concetto dell'altrove quando si occupa del disagio, ed è stato un esercizio utile, lo è ancora, una pratica che ho iniziato ad adottare, cioè scusate, stare nella sensazione faticosa, nella sensazione dolorosa fin quando appunto non c'è una percezione di uno spazio che si apre. E questa, questa spesso, anzi quasi sempre, apre le sue porte alla sensazione della libertà. Ora appoggio un attimo tutti gli strumenti che mi stanno distraendo, perché sono un po' fuori, mi sento un po' in disaccordo con me stesso, un po' disallineato, e invece questa cosa è importantissima. Sto camminando un cammino e mi fa molto sorridere che la sigla di Rigonia sia una canzone che si chiama Walk the Walk e che il coro finale dica Baby you're the one who can walk the walk, proprio perché a un certo punto questo format sta incarnando il mio percorso. E io mi sto muovendo per concetti adesso, in questo piccolo cordoncino di cui parlavo sto piano piano individuando tutti i pezzettini, tutte le briciole di pane di questo sentiero, che peraltro non ho idea di dove mi condurrà. E una delle briciole, una delle insegne più luminose di cui sto facendo esperienza in questo frangente della mia vita è il senso di libertà. Ho scelto The Master Plan degli Oasis come canzone d'inizio, perché in The Master Plan degli Oasis c'è una frase del testo che a me ha sempre dato delle vibrazioni pazzesche, mi ha sempre fatto provare un'emozione molto forte, e ve la dico subito. There's 4 and 20 million doors on life's endless corridor. Ci sono 4 e 20 milioni di porte nel corridoio infinito della vita. E questa immagine di queste porte, che ovviamente 4 and 20 million vuol dire innumerevoli, innumerevoli, 4 volte 20 milioni in questo corridoio infinito, ed è quello che sento, è quello che sento nell'altrove morelliano. Provo anche oggi pomeriggio, poco prima di entrare in onda, ho iniziato a sentire una certa amarezza, un certo dispiacere, una certa rassegnazione per degli eventi che mi hanno un po' fatto soffrire. E quando entro dentro, come Paul Atreides nella Tempesta in Dune, quando entro dentro queste emozioni, quello di cui faccio esperienza è questo altrove, che è spazio, è uno spazio infinito dove respiro libertà, ed è questo il succo dell'episodio di oggi. Cos'è libertà? Cosa vuol dire libertà? Libertà non vuol dire fare quello che ti pare o essere libero da legami, non è quello. Però è pensarlo, è sentire che se tu volessi farlo, lo potresti fare. E d'altronde non lo fai perché sicuramente c'è tanto nella vita, sicuramente ci sono cose che non puoi semplicemente trascurare. Però libertà è la percezione di uno spazio, ed è anche percezione di una forza, di una propulsione verso la possibilità di un cambiamento in ogni direzione. E quando entri in contatto con questa forza, tutto diventa più leggero e tutto diventa possibile. Se fosse che i nostri disagi vengono proprio per indebolirci. Sì, perché siamo troppo forti, troppo ostinati, troppo certi di che cosa funziona e di che cosa non funziona nella nostra vita. Trovi il tempo durante la giornata per qualche secondo per andare altrove, altrove, in un posto sconosciuto che non vedi, che non c'è, che nessuno conosce. I bambini immaginano anche nei più grandi disagi, fanno fantasia anche nei più grandi disagi. La nostra psiche è seduta per evolvere sulla sua capacità immaginativa. Immaginati un panorama, un albero, un animale amico, un fiore, immagina quello che credi, ma immagina. Immaginare è andare altrove, in un regno energetico dove si forma incessantemente il tuo essere. Pensare e ripensare al dolore lo cronicizza. Immaginare ci permette di superare, di trasformare la realtà in un regno dove possiamo sostare, riposare, rinnovarci, rigenerarci e ricrearci. Devo dire che queste ultime parole di Morelli, perché sono andato un po' di corsa su YouTube ad andare a pescare qualcosa di questo concetto dell'altrove di cui dicevo prima, mi hanno particolarmente colpito. Non le avevo mai ascoltate, o forse sì, ma le avevo dimenticate, perché riprendono in mano un antico concetto, qualcosa che avevo anche menzionato in una di queste ultime puntate che sto facendo, che riguarda il potere dell'immaginazione. E io nel potere dell'immaginazione ci ho creduto tanto da ragazzo, pensavo fosse la mia più grande forza, la mia qualità migliore, cioè il fatto di aver messo l'immaginazione al comando. Ma in realtà, adesso che sono adulto, posso dire che era un po' una battaglia ideale, ma non lo stavo facendo veramente, perché non avevo gli strumenti effettivamente per capire cosa significa. E vado spiegando. La libertà è un regno energetico, bellissimo, bellissimo concetto che rubo a Morelli. È un regno di energia bella, forte, e energia che protegge. Il concetto di protezione per me è diventato fondamentale in questi ultimi giorni, perché comincio a distinguere l'energia che mi protegge dall'energia che non mi protegge, e riesco a distinguere l'energia che esce e che torna, e l'energia che esce e basta, o l'energia che arriva e basta. Sono molto sensibile in questo periodo a queste mutazioni, a questi contesti. E l'energia che protegge è Cristina, che ti dice, che ti fa i complimenti per il sorriso. L'energia che ti protegge è l'amico che ti ascolta e ti dice che sei forte. E l'energia che ti protegge è il regno energetico della libertà. E il regno energetico della libertà, se posso usare un'immagine, appunto, se posso introdurre un elemento di immaginazione a questa esperienza, è come uno di quei grandi prati irlandesi o neozelandesi dove poi ci girano i film fantasy. Un territorio sconfinato dove c'è il prato, c'è il cielo. Il cielo ha un colore che non si definisce, è un po' azzurro, un po' grigio, non è maltempo, ma non è neanche bel tempo. E c'è spazio, spazio di smisura, e tu puoi camminare alla tua velocità e puoi andare dove vuoi. E questo spazio, questo regno energetico, diventa poesia. Io non lo so cosa sto facendo in questo momento, non so che cacchio di puntate sto mandando in onda, ma qualcuno le può ricevere queste puntate? A qualcuno importa? E a volte immagino che stia semplicemente scrivendo una specie di poesia, un lunghissimo racconto, però non un romanzo, qualcosa di diverso, qualcosa di pallido, di impalpabile, e però allo stesso tempo di denso, come poteva essere una bella poesia di Thomas Stearns Eliot. E io non vi sto citando niente, non vi cito autori, non costruisco concetti, o quantomeno sono concetti, come dire, che nascono dall'esperienza, ma non finirebbero mai tra le pagine di un libro che uno legge per informarsi su quella cosa lì. E non mi va, non mi interessa. Il punto è la vibrazione, il punto è l'energia, il punto è la soglia, quel punto di rottura dove a un certo punto nella tua vita di tutti i giorni spacchi qualcosa, o almeno attraversi qualcosa, attraversi una sottile lastra, leggera, e ti ritrovi dentro questo prato, e dentro questo prato respiri. Una delle cose più affascinanti che sto riscontrando in questo periodo è appunto il mio rapporto con la respirazione. Mi sembra che sia più profonda del solito, ma soprattutto che sia molto più focalizzata sull'espirare. E ogni volta che io appunto inalo aria, la cosa più importante è sempre farla uscire. E uno degli effetti più belli di questa tensione, di questo momento in cui d'un tratto mi rendo conto che sto respirando a fondo, è il fatto che un poco alla volta è come se il mio corpo espirasse più giù, cioè come se si svuotasse di più. E infatti, così come sento la libertà, la libertà di lasciare l'aria fuori, la libertà che mi lascia rilassare, la libertà che mi fa rompere questa membrana, allo stesso tempo percepisco che c'è ancora qualcosa, c'è ancora un piccolo spazio che posso prendermi. Non svuoto tutto il torace, non mi libero con tutto il corpo, c'è ancora un blocchettino, c'è ancora un piccolo impedimento. Non sono ancora nel regno energetico della libertà in tutto e per tutto, però ne faccio esperienza quotidianamente. E ieri sera in realtà, mentre trasportavo questi pacchi pesantissimi, ma chi se ne frega del peso, mentre pensavo, ma sì, quanta roba vecchia, quanta roba inutile. Tra l'altro, tra le cose che si sono salvate ci sono alcuni degli oggetti più inutili che possediamo, tipo una bacinella elettrica dove in teoria ti puoi fare dei massaggi ai piedi con le bolle. Fa schifo, una cinesata che ho comprato a Lucia, una porcheria. Oppure una macchinetta di quelle Ariete per fare gli hot dog. Cioè, quella roba si è salvata, libri distrutti. Comunque, scherzi a parte, quando io ero lì e trasportavo le scatole, quello che sentivo era pace. E questa pace derivava dal fatto che ero in uno spazio, in un regno energetico di libertà. Quelle scatole facevano spazio al respiro e alla libertà. Satnam, everyone, it's Candace. I just wanted to talk to you a bit about creating your own sacred space ahead of our global ceremony on January 19th, as it's very important that you're comfortable and that you find a space where you will not be disturbed. We are going to be lying back on our backs for up to 90 minutes, so making sure that you have pillows, something to put under your knee and your neck, so that you can be the most comfortable is a great idea. Your favorite blanket, and I also do recommend having an eye cover, really allowing you to go that much deeper. Ahead of the ceremony, you may want to smudge the space with Palo Santo and sage just to clear any negative energy out of the area, and also do it around your own body. Clear out your auric and energetic field. You can bring in any of your favorite tarot cards, any of your crystals, anything from your altar, or that you would like to just have with you as inspiration while we're on this guided journey. If you have any questions, feel free to email me. Torniamo in onda così asciutti, ma volevo tornare in onda asciutto per la verità, è che pensavo ci fosse più audio. Comunque, 22 maggio 2024, Rigonia, stagione 2, episodio 25, mi bagno della bella energia di Cristina, che ha questo dono pazzesco, lo ci ha sempre avuto da che ho avuto il privilegio di conoscerla, di sapere emanare questa vitalità pazzesca e si sente, la trasmette. Cristina, la trasmetti, la viviamo quando ci sei, la viviamo forte e chiaro. 43 minuti, questo è uno dei momenti in cui bisogna tirare le somme, mannaggia, e io non so che canzone mettere dopo, vabbè, questa devo passarla per forza. E stavo pensando proprio a questo, alle canzoni, no? In qualche modo forse questa è anche una canzone che sto scrivendo. È una canzone che sicuramente ha due strumenti, tutto il mio apparato radiofonico e il tuo ascolto. E infatti mi domando, e questa è una bella domanda, ma in questo regno energetico incontrerò qualcuno? Perché in questo grande prato adesso ci sono solo io, ed è bello, eh? È molto bello, è veramente bellissimo. Quando riesco a entrare in questo bagno di libertà, di spazio, di energia, wow, adesso che ci sono entrato mi sento come un dio, mi sento invincibile, è una sensazione fantastica, vorrei tanto, cavolo, vorrei tanto trasmetterla al tocco, o con la parola, non so, vorrei che voi foste qui con me. È una delle cose, come dire, più dolcemente amare. Usiamo questa opposizione di concetti. È dolce ma anche amara l'idea che in questo regno energetico non ci saranno proprio tutti. Ed è anche amaro il fatto che io sono in questo regno energetico e conosco delle persone che vorrei trovassero il loro regno energetico. Lo vorrei veramente, perché penso che non si meritino di restarne fuori, penso che ne avrebbero bisogno, penso che guarderebbero la vita con altri occhi. Le scatole, le cose che ho buttato, le cose che devo provare a salvare, quello è il vecchio mondo. E per quanto io farò del mio meglio, perché non si spreca la roba, per carità di Dio, assolutamente no, ma quelle scatole, quel salvare, quel buttare, è stato come un segno, come uno dei tanti segni che vedo in questo periodo, come un messaggio chiaro. Non ti potrai portare tutto dietro, non hai bisogno di portare tutto dietro, sta roba non ti serve più. Adesso ricominciamo da capo e facciamo delle cose diverse e facciamo delle cose più belle. E pensavo a me stesso, no, alle mie crisi decennali. E pensavo, le altre volte sono rimasto atterrito, sono rimasto schiacciato. Ho passato più anni a riprendermi dalla crisi che non anni che ho vissuto fuori dalla crisi. Invece, proprio perché ho questa percezione, cioè questa membrana che ogni tanto io attraverso e dentro in questo mondo magico, io posso dire che la crisi la accolgo. Ben venga la crisi. Quello che mi dà in cambio la crisi è qualcosa che io davvero, a proposito di immaginazione, ma io non avrei immaginato mai. Non avrei mai immaginato di provare questa emozione, non avrei mai immaginato di provare questa energia, questa convinzione, questa fiducia assoluta. Io so che succederanno delle cose. Io so che andrò in dei posti. Io so che incontrerò delle persone. Io so, lo so, sarà così. E adesso è tutto possibile, no? È il corridoio con 40 milioni di porte. Io posso sbirciare in tutte le porte. O posso semplicemente camminare nel corridoio. Posso sedermi e godermi l'aria di questo prato. Perché poi parlo del corridoio, ma il corridoio è un po' stretto come concetto, no? Invece questo è spazio, perché la puntata è la libertà ma anche lo spazio. E io davvero spero che in questo episodio io sia riuscito a trasmettere, non andare in onda, ma a trasmettere nel senso di veicolare, di consegnare la bellezza di queste emozioni. Perché quando sono in questo regno energetico tutto e tutti vanno bene. Va bene anche chi mi ha ferito, va bene anche chi se ne sta uscendo, chi non c'è più, va bene anche quello che mi annoia, va bene anche quello che tutto sommato devo fare perché devo fare, va bene tutto perché c'è fiducia, c'è energia, c'è protezione e c'è un concetto che non ho ancora detto. È che sono contento e mi sia venuto in mente adesso perché ci avviciniamo a conclusione, ed è anima. Io non so se ci sono altre persone dentro questo regno energetico, ma sicuramente qualcuno c'è, ed è l'anima. Ed è come se io in questo prato ecco un'immagine simpatica, in questo grande prato neozelandese col cielo infinito. C'è un tavolino e due sedie al centro, così. E io ogni tanto, sempre più spesso, mi ritrovo in questo prato a camminare bellissimo. Sto in pace con me stesso e mi sento forte come una roccia. E poi ogni tanto, sempre più spesso, con maggiore frequenza, ma non così spesso, incontro un altro. E quell'altro sono sempre io. Ed è la mia anima. E io e la mia anima stiamo insieme e ci beviamo il caffè e facciamo due parole. E io le voglio bene. È una persona squisita la mia anima. È simpatico, ma è anche leggero. È posato. Però è equilibrato. Ed è molto acuto. Ed è molto profondo e sa ascoltare e conosce tante cose, ma soprattutto conosce tante persone che sono sempre io e incontro anche loro e tutti me stesso che sono stato, li incontro in questo spazio incredibile e devo dire che mi piacciono tutti, sono tutti ragazzi o bambini o adulti in gamba, qualcuno forse un po' mattocchio, un po' strano, qualcuno un po' fumantino, qualche intemperanza, però sono tutte care persone, è bello incontrarsi lì, è bello aver scoperto questo spazio, è meglio di quando con i miei amici scopravamo i circoli arci di nuova apertura, zozzissimi, con l'alcol a bassissimo costo e li frequentavamo fin quando non diventavano posti fighetti. È persino meglio di quello, che è stata una delle cose più divertenti che ho fatto nella vita. E niente, che cazzo vi devo dire ancora? Una bella parolaccia, ce la ficchiamo in questa puntata, porca puttana, eh? No, sono contento perché sempre più spesso nell'arco di 24 ore mi sento libero. E quando mi sento libero, sento che attorno a me è uno spazio infinito, pieno di possibilità. E mi invade un'energia pulita, buona, creativa, magica, qualcosa che non ho mai conosciuto prima. E in questo spazio incontro anche me stesso. E ci sto assieme e mi piace molto. Mi spiace per quelli che non credono a queste cose, mi spiace per quelli che non sanno apprezzare questo tipo di astrazioni, non sanno, non capiscono questo tipo di percezioni, non si lasciano andare. Mi spiace, perché io invece, adesso che divento un adulto, imparo questa cosa, cazzo. Sto bene, sto veramente bene. Vi lascio con l'ultima canzone. È una canzone bella, piena di energia bella, di un live bellissimo. Sono sempre gli Oasis, oggi ho voluto affidare a loro la parte musicale, la cura musicale dell'episodio, che era l'episodio 25 della stagione 2 di Rigonia. Sono le 17:53 da quando sono entrato nel mood che volevo per questo episodio, l'episodio volato. E io spero che a voi sia piaciuto. Anche a te, amico ascoltatore che mi sentirai in differita, spero che ti sia piaciuto. Grazie, per essere stato con me altrove. Yeah. amici su Rigonia.